la lotta contro il fascismo e contro il nazismo, in Italia, in Jugoslavia, in Francia, dove è sempre una lotta comune. Quindi se io combatto con gli italiani, combatto anche per la mia gente. E gli dissi così, dico, io rimango qui perché penso che combattere con voi, combatto anche per la mia gente. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclama l'insurrezione generale, mettendo così fine all'occupazione nazista e al regime fascista. Cosa rimane oggi di questo evento e come si è costruita la memoria pubblica della Resistenza? Lo raccontiamo nello speciale Tra Utopia e Lotta, 80 anni di Resistenza in tre puntate dedicate alla lotta di liberazione. Bentrovate e bentrovati all'ultima puntata del nostro speciale dedicato all'ottantesimo della liberazione tra resistenza e utopia. Occorre dirlo, questa puntata noi non l'avevamo prevista, però trovandoci fra le mani tanti consigli di lettura come quelli che ci avete mandato rispondendo al nostro appello, non abbiamo potuto far altro che sdoppiare questo appuntamento. Una bella soddisfazione per la nostra redazione, ma soprattutto una bella panoramica di quelle che possono essere delle buone letture, dei buoni spunti di approfondimento sulla resistenza, italiana soprattutto, ma anche europea, al nazismo e al fascismo, tra classici e piccole chicche. Se vi dovesse essere capitato di andare in libreria in questo periodo, avrete notato che come sempre per gli anniversari a cifra tonda, c'è una corsa da parte delle case editrici alle nuove uscite. Anche solo per citarle tutte avremmo fatto una puntata di Vallun. Poche però, secondo noi, hanno rappresentato una novità, tanto in termini di ricerca quanto di approccio. E per questo motivo noi ve ne citiamo solo un paio, che sono La storia internazionale della Resistenza, a cura di Carlo Greppi e Chiara Colombini, per la terza, che approfondisce quello che è stato un nostro vecchio amore, quello per i partigiani stranieri, il loro ruolo all'interno della lotta di liberazione italiana. E poi un libro di una storica amica di Vallun, che è Margherita Becchetti di Parma, che ha pubblicato per MUP Edizioni Non per bellezza, donne e uomini nella lotta partigiana. Un bel libro in cui si riflette sulla partecipazione alla lotta di liberazione da parte delle donne, che a differenza di molti uomini hanno veramente scelto di svolgere un ruolo attivo all'interno della liberazione, perché ad esempio le donne non erano minacciate dai bandi di reclutamento della Repubblica di Salò, che sappiamo essere stati all'origine di molte scelte di andare in montagna da parte di tanti partigiani. Noi, come abbiamo fatto in altri anni, avevamo pensato di inserire all'interno di questo anniversario una piccola parte dedicata alla rassegna stampa del 25 aprile, che un appuntamento che abbiamo sempre seguito in altri anniversari e in passato. Però guardando quello che è uscito nell'arco di quest'anno e soprattutto a ridosso dell'anniversario del 25 aprile, devo dire che abbiamo deciso di non farlo. I nomi sono stati spesso ricorrenti degli storici, soprattutto rimarchiamo il plurale al maschile storici, perché sono sempre stati storici accademici di lungo o lunghissimo corso. Pensiamo ad esempio al ricco speciale della lettura del 20 aprile ad essere stati intervistati, e una riflessione proposta spesso poco aggiornata, in cui sostanzialmente ci si interroga sul carattere divisivo del 25 aprile e si invoca un nome come quello dello scrittore Antonio Scurati per dare una spiegazione del tutto. Insomma, un panorama un po' desolante e una sensazione che è un po' peggiorata nell'arco della settimana del 25 aprile, considerando che neanche il giorno stesso dell'anniversario diversi giornali, soprattutto quelli diciamo di centro o conservatori, non hanno fatto proprio alcun riferimento all'anniversario della liberazione, dedicando le prime pagine alla morte del pontefice Francesco. Per cui da parte nostra c'è stata veramente una scelta, abbiamo deciso di dare spazio alle voci della comunità di Vallun, per cui vi auguriamo un buon divertimento, perché noi ci siamo molto divertiti e divertite ascoltando questa carrellata di proposte. Noi in chiusura vi ricordiamo che questa, come le altre puntate, le ritrovate al nostro sito www.radiovallun.info e al nostro canale Telegram Radio Vallun. Per chiudere però anticipiamo la bella riflessione che ci ha regalato Radio Spalla Sol di Torino, che da persona nata in Spagna ci ha ricordato il carattere prezioso del nostro 25 aprile. Non in tutti i paesi europei, diciamo, c'è una festa in cui viene celebrato la sconfitta del fascismo. Noi ce l'abbiamo ed è una bella fortuna. Teniamocelo stretto, continuiamo a praticare l'antifascismo ogni giorno, anche con i libri. Buon ascolto e viva la liberazione tutto l'anno da parte di Fred e la redazione di Vallun. Ciao a tutti e tutte, sono Riccio di Puttagè, il programma di Radio Banda Larga di Torino che da anni ormai collabora con Vallun. E per questi consigli che avete chiesto per il 25 aprile ho subito pensato a quello che per me è il modo migliore di capire la resistenza, che non è un libro, un romanzo, diciamo, ma è una raccolta di lettere autentiche. Si chiama Lettere di condannati a morte della resistenza italiana ed è pubblicato da Einaudi. E sono gli ultimi messaggi di più di 100 partigiani e partigiane che scrivono proprio nel momento in cui sanno che stanno per morire. Sono infatti parole scritte su foglietti, ma anche sui muri della prigione, in un caso su una pagnotta secca, in un altro sulla Bibbia con uno spillo. Sono lettere veramente impressionanti per la loro bellezza e la loro lucidità. E fanno commuovere, ma fanno soprattutto capire che la resistenza non è una cosa che è successa, ma sono queste persone che hanno scelto di collaborare per liberare l'Italia e per i loro ideali. E vi lascio con una di queste lettere, che è scritta da Domenico Caporossi, nome di battaglia Miguel, 17 anni, elettricista, catturato qua vicino a Torino, a Cirié, mentre andava a trovare la famiglia, poi torturato per 36 ore e fucilato senza processo il 21 febbraio 45. Cara mamma, vado a morire ma da partigiano, col sorriso sulle labbra e una fede nel cuore. Non stare malinconica, io muoio contento. Saluta amici e parenti, un forte abbraccio e bacioni al piccolo Imperio, Ileno, il caro papà, nonna e nonno, e di ricordarsene sempre. Ciao, vostro figlio Domenico. Ciao amici e amiche di Vallun, sono Radio Spalla Sol di Puttagè e vorrei consigliare un libro di un autore che conoscete bene, Los Turcos de la Zar, de Paco Roca, in italiano I Solchi del Destino. Beh, questo libro parla della storia della Nueve, una sezione militare formata da spagnoli, repubblicani, comunisti, socialisti, anarchici, che avevano perso durante la guerra civile spagnola e hanno continuato a lottare contro il fascismo in Europa, facendo alla fine parte della liberazione di Parigi. E, ho scelto questa storia perché da che vivo qua in Italia sento una sorta di invidia sana per la festa della liberazione del 25 aprile. Purtroppo in Spagna non abbiamo mai avuto una giornata così per ricordare i nostri partigiani, tante uomini e donne che sono morti durante la guerra, anche durante la dittatura di Francisco Franco. E la storia della Nove mi aveva dato un po' di sollievo pensando in quei soldati che hanno potuto celebrare la caduta del fascismo, anche se erano molto lontani dalle loro famiglie, che ancora erano sotto il regime e lo sarebbero stati per tanti anni. Bene, spero che vi piaccia il mio consiglio e abbracci a todos e feliz día de la liberación. Ciao amiche e amici di Vallun con due O. Io sono Alex, volevo consigliare una lettura di un libro che mi ha molto appassionato, di Maria Stefanopoulou, che è un'autrice greca. E il titolo è Athos, le forestier. La versione originale è in greco, io il greco non lo so, quindi ho letto la traduzione in francese, perché è un libro che ho trovato in una libreria dell'usato in Belgio. Edizione francese è del 2019, l'originale del 2015. Non so se esiste una copia in italiano, però in francese, per chi lo sa, o ancora meglio per chi sa il greco, è un libro molto bello che si dipana lungo 60 anni di storia greca, dalla Seconda Guerra Mondiale fino al periodo democratico dopo la dittatura dei colonnelli, e prende il via dalla strage nazista di Calavrita quando in questo piccolo paese del Peloponneso i nazisti fanno strage di tutti gli uomini del villaggio che hanno più di 12 anni. Athos è uno di loro ed è l'unico che è sopravvissuto e decide quindi di essere morto per la sua società, anche se ancora vivo, e di ritirarsi nei boschi. Quindi lui è il forestiere, il forestale o il boscaiolo, e prendersi cura poi degli alberi, dei monti, della regione in cui lui ha vissuto. Ma la vera storia in realtà è narrata dai tre personaggi femminili del libro, che sono la moglie, la figlia e la nipote, che attraverso il confronto con questo sopravvissuto ricostruiscono la storia della società greca di quegli anni e dei traumi e delle cicatrici che si porta dietro ancora adesso. Spero che per chi possa avere la fortuna di leggere questo libro sia una buona opportunità di approfondire un po' sì, la storia contemporanea greca che almeno a scuola non è stata studiata molto, almeno da me. E quindi questo libro mi ha fatto riscoprire molte cose nuove. Un saluto a tutti, ciao! Premesso che la scelta è stata difficilissima, colgo questa occasione per segnalare una piccola pubblicazione di Donzelli Editore dal titolo Roma 44, le lettere dal carcere di Via Tasso di un martire delle Fosse Ardeatine. Si tratta di un piccolo volume che raccoglie i diari e le lettere di Orlando Orlandi Posti, giovanissimo partigiano romano, detenuto nel carcere di Via Tasso e fucilato alle Fosse Ardeatine 10 giorni dopo il suo 18° compleanno. Ho conosciuto la storia di Orlando grazie al piccolo museo del diario di Pieve Santo Stefano, che nel suo archivio conserva gli originali dei testi pubblicati, vale a dire un breve diario dedicato alla fidanzata Marcella e dei biglietti clandestini che Orlando, durante la detenzione, inviava a casa nascondendoli nelle cuciture della biancheria da lavare. Nelle parole che scrive non traspare quasi nulla dell'esperienza partigiana. In lui non c'è alcuna forma di protagonismo o di autocompiacimento. Descrive piuttosto la crudele realtà della detenzione e degli interrogatori. Racconta il momento dell'arresto. Chiede alla madre di mandargli dei pezzetti di punta di matita, essenziali per continuare a scrivere, visto che non gli venivano forniti. E soprattutto sogna il futuro con Marcella, maturando anche il desiderio di iscriversi alla facoltà di medicina. Questi sogni personali, brutalmente infranti, si mescolano ai grandi ideali collettivi che invece sopravvivono e che probabilmente avevano spinto Orlando ad aderire alla resistenza. Casa, lavoro, pace e il ritorno alla normalità per tutte e tutti. E così una piccola storia privata, intima, diventa un punto di accesso per la grande storia, di cui si rivelano tanto gli slanci ideali quanto la ferocia. Ciao, ho due consigli per voi. Il primo è un libro, Uomini e No, di Vittorini, che racconta di un'azione partigiana nella Milano del 44. È stato scritto proprio nel 44 e pubblicato già nel 45. È scritto con un linguaggio semplice, senza epica, ma nonostante il testo sia molto asciutto, è ricco di metafore, elementi simbolici che lo rendono molto evocativo. E in più lo scrittore si mette qua e là in scena come uno spettro, in dialogo col protagonista, portando la narrazione su un piano quasi onirico, psicologico, di riflessione sul senso della lotta e dell'esistenza tutta. Il secondo consiglio sono i disegni della raccolta Gott mit uns di Guttuso, realizzati tra il 43 e il 44, quando partecipava alla resistenza facendo volantinaggio e disegnava con quel che trovava nelle tipografie. Sono disegni di condanna, di fucilazioni, di torture, impiccagioni civili, veloci ma realistici e molto potenti. Ora, su quel che mi insegnano queste opere, diciamo che mi ribadiscono l'importanza della scelta, quella anche quotidiana, davanti alle prepotenze, indifferenze altrui e nostre. E questo sia per il messaggio di denuncia e testimonianza che veicolano, sia perché sono realizzate durante la resistenza, sono espressione diretta della resistenza in atto. Ciao amici e amiche di Van Loon, sono Lucio. Per il 25 aprile vorrei consigliare due classici della letteratura italiana che però io ho letto solo quest'anno e che mi sono piaciuti tantissimo, che sono Uomini e No di Elio Vittorini e L'Agnese va a morire di Renata Viganò. Uomini e No, che è il primo romanzo della resistenza italiana pubblicato nel giugno del 45, mi ha sorpreso soprattutto per il suo stile, che è molto lontano dallo stile realista, è scritto in un linguaggio musicale che eleva la vicenda a un piano quasi metaforico, simbolico, molto potente. L'Agnese va a morire, invece, che è un romanzo neorealista, mi ha colpito per, soprattutto per i suoi personaggi, che non sono dei partigiani delle montagne, ma dei partigiani delle paludi, essendo ambientato sul delta del Po dell'Emilia Romagna. E poi per la potentissima figura della protagonista, l'Agnese, che è un chiaro alter ego dell'autrice, lei stessa partita partigiana durante la resistenza. Un saluto e un grazie a voi per quello che fate, buona lettura e buon 25 aprile a tutti. Eusebio Giambone, Torino, carcere giudiziario, lunedì 3 aprile ore 22. Cara adorata Luisetta, le cose che vorrei dirti sono tante che non so dove cominciare. Nella mia testa vi è una ridda di pensieri che potrei esprimerti bene solo a voce, pur essendo calmo. Cercherò di coordinare per esprimerti esattamente tutto ciò che penso e il mio vero stato d'animo in questo momento. Sono calmo, estremamente calmo, non avrei mai creduto che si potesse guardare la morte con tanta calma, non indifferenza, che anzi mi dispiace molto morire, ma ripeto, sono tranquillo. Io che non sono credente, io che non credo alla vita dell'aldilà, mi dispiace morire ma non ho paura di morire. Non ho paura della morte, sono forse per questo un eroe? Niente affatto, sono tranquillo e calmo per una ragione semplice, che tu comprendi. Sono tranquillo perché ho la coscienza pulita. Ciò è piuttosto banale, perché la coscienza pulita l'ha anche colui che non ha fatto del male, ma io non solo non ho fatto del male, ma durante tutta la mia vita breve ho la coscienza di aver fatto del bene non solo nella forma ristretta di aiutare il prossimo, ma dando tutto me stesso, tutte le mie forze, benché modeste, lottando senza tregua per la grande e santa causa della liberazione dell'umanità oppressa. Fra poche ore io certamente non sarò più. Ma sta pur certa che sarò calmo e tranquillo di fronte al plotone di esecuzione come lo sono attualmente, come lo fui durante quei due giorni di simulacro di processo, come lo fui alla lettura della sentenza, perché sapevo già all'inizio di questo simulacro di processo che la conclusione sarebbe stata la condanna a morte. Sono così tranquilli coloro che ci hanno condannati? Certamente no. Essi credono con le nostre condanne di arrestare il corso della storia. Si sbagliano. Nulla arresterà il trionfo del nostro ideale, essi pensano forse di arrestare la schiera di innumerevoli combattenti della libertà con il terrore? Si sbagliano, ma non credo che si facciano queste illusioni. Sanno certamente di non poter arrestare il corso normale degli avvenimenti, ma agiscono con il terrore per prolungare il più possibile il momento della resa dei conti. Ad ogni modo siamo una famiglia predestinata a dare tutto per la causa. Io oggi, come prima vitale sul campo di battaglia. In questo momento rivedo come se li vivessi 21 anni del nostro grande amore, amore che si è confuso e rinnovato nei nostri figli. Non vedo una differenza o una mancanza di continuità fra il nostro ardente amore giovanile ed il calmo amore della nostra maturità, che si esprime con la passione che tutti e due abbiamo riservato alla nostra Gisella. Rivedo e rivivo questi 21 anni e mi sento tranquillo perché sono convinto di essere sempre stato un cuore amante, uno sposo ed un padre perfetto, se si può parlare della perfezione. Avrei voluto vedervi anche un solo istante, stringervi nelle mie braccia perché poteste attingere coraggio dalla mia perfetta tranquillità. Non fu possibile, ma sono certo che tu sarai forte e coraggiosa e che saprai evitare che questa sciagura possa troppo scuotere la nostra Gisella, che è tanto suscettibile e sensibile, infondendo a lei il tuo coraggio. Appena sarai calma, e lo devi essere rapidamente. Vai a fare un piccolo viaggio a Camagna, Ocimiano, San Martino per distrarre Gisella e fargli conoscere i cugini suoi, non solo, ma anche perché tutte e due possiate trovare energie fisiche, certamente scosse in questo momento, con un nutrimento più consistente. Quando la situazione lo permetterà, andrete certamente a raggiungere i genitori, ma non precipitare nulla e non compromettere l'avvenire di Gisella se è possibile farle continuare gli studi. Termino. Non che abbia più nulla da dirti, ma potrei continuare per ore a parlarti del mio amore per voi. Credo non sia necessario. Sii forte per te, per Gisella. Sono certo che lo sarai, come sono certo che vedrete il mondo migliore per il quale ho dato tutta la mia modesta vita e sono contento di averla data. Coraggio, vi amo quanto può amare uno sposo ed un padre. Vi stringo in un abbraccio ininterrotto per tutte le ore che mi restano di vivere. Eusebio. Eusebio Giambone, di 40 anni, tornitore, nato a Camagna Monferrato, Asti, il 1 maggio 1903. Militante comunista, non ancora ventenne, è accanto a Gramsci e Parodi nelle vicende dell'occupazione delle fabbriche. Nel 1923 è costretto a esiliare in Francia. All'occupazione tedesca della Francia entra nel movimento clandestino e vi svolge azione particolarmente intensa fra i suoi connazionali. Nel 1942 è arrestato dalla polizia del governo di Vichy e internato nel campo di concentramento di Vernet. Espulso dalla Francia dopo il 25 giugno 1943, rientra a Torino. All'indomani dell'8 settembre 1943 si unisce al movimento clandestino torinese. È designato a far parte del primo comitato militare regionale piemontese, quale rappresentante del Partito Comunista Italiano, col particolare incarico di organizzare squadre operaie torinesi per la difesa della città. Medaglia d'oro al valore militare. Tra utopia e lotta, 80 anni di resistenza, è lo speciale della redazione di Vallun dedicato alla lotta di liberazione. Potete riascoltare tutte le puntate in podcast su www.radiovallun.info e sulle principali piattaforme audio. La voce che avete ascoltato all'inizio della puntata è della partigiana Vinka Kitarovic.